Vasquez, buonasera. Buonasera. È bello che sei così allegro. Tu c'hai un sacco di tristezze nella tua vita? Il film che ho visto l'altro ieri, una cosa terribile. Ma tu perché vedi film senza la mia autorizzazione? Io non capisco. No, hai ragione, guarda, ammetto la mia ignoranza. Ma io lo so perché tu visto, io lo so perché. Perché tu rimani conquistato da questi titoli Gangster, Guns and Zombies. Eh sì. E il dito ti va sopra, cioè sì, non riesci a... Patapom. E poi rimani, la cosa forte è che rimani anche deluso poi. Ma umiliato. Pensavo fosse bello con un titolo così. Infatti dico così, adesso spaccheranno, distruggeranno. Invece è una... no, allora, diciamo questo. Bisogna essere onesti con i nostri ascoltatori. Il film è, proprio perentorio, è, voce del verbo è. Cioè non è che ci sono dubbi. No, è il film è il più brutto film... sugli zombie, cioè di tutta la cinematografia zomboide, questo è il più brutto al mondo. Nella storia anche. Proprio nella storia del cinema, dai fratelli Lumière, tu li conosci? Sì, Auguste e... Bravo, e Jean-Jacques. Jean-Jacques. Jean-Pierre. È il più brutto film in assoluto, penso. Cioè, no. Beh, guarda, ti potrà consolare il fatto mi che... Mi spingo. Oltre, è il più brutto film della storia. Vabbè, dopo coso, la Riede lì, come Alex la Riede. Dopo Alex la Riede, questo è il più brutto film del mondo. Ti consolerà che è uscito solo in DVD o solo in televisione in soli 3 paesi nel pianeta: Olanda, Francia e Inghilterra. Questo film qui? Sì. Quello Gangster Gangster Guns and Zombies. Che io pensavo, bello, bello. Invece si svolge tutto dentro un camion. Loro. Già economico, eh? Sì, dentro un camion con la telecamera sola da una parte. Molto economico. Ogni tanto loro vanno via, scappano perché hanno rapinato una banca in mezzo agli zombie, eccetera. E ogni tanto si fermano. Ah, devo pisciare. Ah, no, non ci possiamo fermare che gli zombie ci ammazzano. No, ci dobbiamo mezz'ora così. Sì, fermiamoci. No, non fermiamoci. Ehi, Joe, ci fermiamo. Già un capolavoro. Non ci fermiamo. Quando stai lì per prendere la mazza da 5 kg e spaccare il televisore, si fermano. La genialità del regista è che... arrivare al limite di sopportazione dello spettatore. Si fermano. E lì lui va al... vanno in mezzo al bosco di notte. Per stare sicuri, cioè non voglio rischiare. Bosco di notte, non... Che c'è? Che arrivano i zombie a palla. Quindi loro ogni volta lo fanno 5-6 volte. Corri, scappiamo. Inizia, prendono a pugni gli zombie. Ma come sono truccati gli zombie? I zombie sono truccati un po' di sangue qua. Una cosa generica, così. Sì, una cosa buttata lì, insomma, che potrebbero essere pure uno normale. Uno che passava di lì. E li prendono a pugni. A un certo punto, ad una delle tante fermate, ci sono gli zombie vestiti da medioevo. E questi prendono a pugni, sai, con la labarda, no? Tutte le cose. Ma se li prendono a pugni, c'è una menzogna nel titolo: non ci sono le pistole. Non ci sono le pistole perché loro finiscono quasi subito i proiettili. Ma allora è molto ingannevole tutto questo, eh? Sì, pubblicità ingannevole. Esatto. Comunque, nella locandina c'è una, sai, quelle citazioni, quelle tra virgolette delle recensioni, che dice un film incredibilmente divertente. No, non è vero. Sì. È una boiata pazzesca. Vedi tutte le armi, mitragliatori, cose. Non ci sono. Ci sono all'inizio e basta. Cioè, non c'è nulla. Ed è terribile. Il finale è una cosa che non ci si crede. Il finale è una cosa... Lo posso dire? Beh, direi di sì. Sì, diciamo di sì. Che loro alla fine partono in 6-7 e ne arrivano in 3 con una donna che si è innamorata di uno. Di uno zombie. No, di uno che non è zombie. Di uno un non zombo. E un amico loro aveva una barchetta, un barchino, e loro riescono a montare su questa barca e andarsene, e sembrano salvi, però alla fine dietro due zombie che nuotano velocissimamente che cercano di raggiungerli. Beh, è bellissimo. È una cosa... Ho voluto vedere come... Cioè, sì, medaglia al valore per essere arrivato alla fine. No, volevo vedere che... Cioè, non è possibile che un film è così brutto... Cioè, com'è possibile? Sarà un finale scoppiettante. Cioè, girato in una settimana, quelle cose così. Sì, ma terribile. Ogni tanto facevano vedere un po' di zombie che passavano. e loro con la macchina che camminavano. Ci vorrebbero le cifre, bisognerebbe sapere quanto è costato, quanto ha venduto, quanto è stato noleggiato. Ci vorrebbero proprio delle cifre precise. Ha venduto? Ma chi giusto io? No, guarda, solitamente questo tipo di film, così fatti con zero soldi, non vanno mai in perdita, perché vengono fatti in maniera molto economica e hanno tutta una serie loro di canali per cui girano. Raramente vanno in perdita. Mannaggia. Va bene, veniamo alla cinematografia seria di questa settimana. Di un certo livello. Finalmente ho visto la grande bellezza. Oh, e l'hai lo gradisti? Splendido, splendido. Non vedo un film così bello dai tempi. Oh. Certo, come diceva la nostra Sara qui, Sorrentino dovrebbe staccare un assegno a Fellini. Bel assegno a Fellini. Ma però la forza del film che parte da lì, parte esplicitamente, perché la prima scena sulla terrazza Martini è la stessa della prima scena della Dolce Vita, quindi cominciamo proprio da lì, però poi va da tutt'altra parte, va a finire proprio da un'altra parte. Sì, però tutto il primo tempo, cioè i richiami sono proprio... Sì, ma i richiami ci stanno tutti. L'importante è quello, però devo dire, lui è un attore qui veramente... strepitoso. Sì, no, ma c'è quel, specialmente per chi, per chi l'ha visto, inizia la sua prima entrata in scena è con questa faccia disperata mentre tutti quanti fanno la festa, rallentatore, che è un'espressione incredibile. Poi ripensandoci a film finito, per cui sai che è successo, sai perché faceva, è straordinario, un attore straordinario. Ma anche verso il finale, quando si chiude con quel suo flashback in cui c'è lui da vecchio, che lui è vecchio nel suo flashback da giovane, pure lì fa dei volti, delle cose, mamma mia, che valgono il film. Film, tra l'altro, bellissimo, davvero bellissimo. E erano anni che non vedevo un film italiano così bello, veramente anni. Bravo, bravo, adesso ti manca Sacro Gra, il dittico su Roma del 2013. Appena uscirà il DVD lo vedrò. Ah, perché tu l'hai visto in DVD? Questo l'ho visto in DVD, sì. DVD. DVD. DVD. L'amore in valigia. Così, subito. No, dimmi tu, dimmi no, tu. No, il contropiede. No, ma per carità, l'amore in valigia, non ti preoccupare, per l'amore in valigia tanto non l'ho visto. Io devo esserci. Sai cos'è questo? Sono miei fratelli. L'ho riconosciuto. Questo è proprio Sfida all'OK Corral. Ma pensa. Pensa, di John Sturges. Del 54, così mi è sovvenuto. È vero? Sì, mi è sovvenuto. Tutti i dati tutti insieme, poi mi sono sovvenuti. Gran film, grandissimo. Prego, allora, diciamo. Dicevo, l'amore in valigia non è un problema, perché tanto non l'ho visto. Come per cui... bello far l'amore. È il nuovo sottofondo? Sì, no, perché... Ti è venuto in mente perché hai visto La grande bellezza, cioè, sì, quel pezzo. Bravo. Remixato, il remix di Raffaele. Tra l'altro, adesso, porca miseria, mi verrai sicuramente tu in soccorso. La colonna sonora della grande bellezza è bellissima, ed è di, non mi ricordo, ma è bellissima. Non me lo ricordo neanche io, perché mi sono stato talmente rapito dal film. Non te lo dico perché mi è rimasto proprio così. È un brano, sono dei brani straordinari. Comandi, come? Riposo, come? Sei sorpreso di vedermi qui? Non molto. Il dubbio che si trattasse di una missione particolare mi è venuto abbastanza presto. Ma un chiarimento adesso mi sarebbe d'aiuto. Vedi, tutto è cominciato quando 3 anni fa fu ritrovato in mare il corpo nudo di una ragazza seviziata. Il colpevole è il grande maiale? Sì, ma è una cosa molto più complessa. C'è di mezzo uno della malavita organizzata, Barra. Ma chi è questo grande maiale? È un uomo importante, dalla facciata pulita. Direi un affarista, a nozze con la politica. E che Barra soddisfa per avere una grossa fetta dei suoi sporchi guadagni. Perché non lo arrestiamo? Ma perché non abbiamo prove, solo sospetti. Ma lei è una testimone, è stata su quella barca. È vero, ma quanto ci risulta ha visto poco. Interpretazione. Quella vogliono uccidere. Per questo ti abbiamo messo accanto a lei. Siamo al 90° Chuck per fare questa scena. C'è una crociera in programma la settimana prossima e noi vogliamo beccare il grande maiale con le mani nel sacco. State pensando a me? Esattamente. Impossibile, sanno chi sono? Sanno che hai girato da solo. Sanno chi sono, non è? In più hai la ragazza. Un grande sportivo o un grande attore? Ma vuol dire che lei deve fare da esca? Solo se accetta. E nel caso avrebbe tutta la nostra protezione. Ma è pericoloso. Quelli vogliono ammazzarla. Pensano che ha visto chissà che cosa. Alex, non ne possiamo più di tutti quelli che sono criminali e più trionfano. Ma si tratta della pelle della ragazza innocente. E poi quelli, porcaccia la miseria, non lo faranno neanche salire a bordo. Ci abbiamo pensato. Tu consegnerai la ragazza solo a bordo della barca e dovrai restare insieme a lei. Si spieghi meglio. Abbiamo bisogno che di impresa epica. Un documentario sul making di questo film. Chi l'ha girato? Bisognerebbe capire chi l'ha girato. Damiano Damiani. Cioè, sul serio. Tra l'altro un grande regista. Sì, sì, e questo però aveva veramente 1500 anni, veramente era vecchissimo. Ma più che altro nell'archivio discografico di Radio Città Aperta, che sappiamo essere sconfinato, ce l'abbiamo. Cross Quartet dovrebbero esserci. Cross Quartet The Beatitudes. Dovrebbe esserci. Nello sconfinato. È veramente un pezzo straordinario. Sì. Che è appunto la colonna sonora della grande bellezza. Che quasi sicuramente, anzi no, è ufficialmente il nostro candidato per l'Oscar. Adesso vediamo come andrà. Ce la farà? Allora no, noi l'abbiamo dato come candidato ufficiale per l'Italia. Quindi bisogna vedere se entra nelle nomination adesso. Cioè se tra tutti i paesi di tutto il mondo noi arriviamo nella... Ma come no? Cioè quello vince facile. Vediamo. Nulla vince è detto. Facile, c'è il vincitore di Cannes che è molto bello, attenzione. Sì. Francese. Però secondo me vince quello, vince la grande bellezza. Cioè beh, speriamo. Però gli avversari ci sono, quanto, cioè non sarà una battaglia semplice, ecco, mettiamola così. A Hollywood? No, non ci va a Hollywood. In che senso? A Hollywood. La distribuzione americana? Dico. No, gli Oscar. Ah, dico gli Oscar, il miglior film. Ah, gli Oscar. Quello io sto dicendo. Io pensavo Cannes. No, cioè il vincitore di Cannes sarà anch'esso, è il candidato della Francia. Sarà dura, perché quello è molto molto bello, veramente, un gran film. Più di La Grande Bellezza? Erano a Cannes insieme e quello ha vinto La Grande Bellezza, no, però questo non vuol dire, ognuno ha i suoi metri di giudizio, però poi è veramente difficile paragonarli, però è un degno rivale, perché io non so chi farei vincere, cioè se non fossi italiano ovviamente, per ovvie ragioni di campanilismo, anzi se non fossi romano. No, molto dura. Ad ogni buon conto, entriamo nel vivo e qui stiamo veramente. Ci stiamo ciurlando nel manico. Tardi, è tardissimo. Questa settimana esce un film che è un'operazione. Questo è veramente sarebbe un testo perfetto per un esame, fatti conto, di analisi del cinema dal punto di vista del business, del box office, del commercio proprio. Perché esce un film italiano che è un'operazione all'americana. Nel senso che gli americani stanno facendo moltissimo recentemente i remake dei loro grandi film. È riuscito La Casa, è riuscito il remake di Alba Rossa. Insomma, ne fanno di continuo, no? Alba Rossa, veramente? Hanno fatto il remake di Alba Rossa. Non è uscito in Italia. Sì, è uscito sotto silenzio, ma è uscito. A me non hai detto nulla. Perché era in estate, non facevamo la trasmissione. C'ho sempre una risposta, hai visto? E insomma, abbiamo deciso di farlo anche noi. Finora l'avevano fatto solo i Vanzina, che avevano fatto Il Ritorno del Monnezza. Però erano degli pseudo sequel. Questo invece è proprio un remake. Un remake italiano di un grandissimo film italiano. E dimostra subito, prima ancora di vederlo, dimostra una cosa: che non si possono fare queste cose in Italia, perché noi non abbiamo la mentalità degli americani. Perché adesso io te lo dirò e tu dirai no, non si può fare, non è possibile. Hanno rifatto Il Vedovo. No, capito, non si può fare. In Italia non si possono fare queste cose, perché abbiamo una sacralità verso il nostro cinema del passato, che te lo rende antipatico. Neanche so cos'è, ma già non lo voglio vedere. Chi è che interpreta Alberto Sordi? È ancora peggio. No, guarda, me ne vado, eh. Attento a quello che dici. Allora, ti dico prima Franca Valeri, perché se non altro Franca Valeri ci può stare. Ci può stare. Luciana Littizzetto. No, ma se devi scegliere oggi, no, è un minimo. No, non ci siamo. Sordi è peggio. Perché è Fabio De Luigi. Ti ho distrutto con questa notizia. Adesso la via a casa mi metto a dormire fino a dopodomani. Allora, il film esce questa settimana e si chiama Aspirante Vedovo. Madonna. Allora, la cosa tra l'altro è molto particolare, perché l'impianto generale è quello lì. Cioè, lui è un arrembante imprenditore che sta con lei, che invece è quella con i soldi. Lei lo tratta male. Lui non si inserisce in questo mondo in cui vorrebbe inserirsi, degli affari, delle cose. E a un certo punto gli viene, siccome lei sembra sia morta, invece no, lui gli viene l'idea: la uccido sul serio. Tenta di ucciderla, di incassarne i soldi. A fronte del fatto che l'impianto, appunto, è quello di Il Vedovo. La maniera in cui si svolge il film non somiglia al Vedovo, cioè è fatto molto diversamente. Innanzitutto è un film che non vuole far ridere tanto, cioè proprio non è un film che punta tanto a far ridere. Cioè, Maggiordomo chi lo fa? Lo fa uno dei due, il duo di Ale Franz. Ma va. Ma ognuno che dirò sarà così. Ma dai, c'era uno che potevo dirti che tu mi dicevi: ah sì, ci sta bene. No. Appunto. No, veramente no. Insomma, è un film che non vuole far molto ridere. Somiglia molto di più ai film di Fabio De Luigi. Cioè, somiglia a La peggior settimana della mia vita o quelle Il peggior boiate dei film di Fabio De Luigi. Ti ha veramente avvelenato, no, questa notizia. Ti ha distrutto. Terribile. Ti ha distrutto. Allora, succo del discorso. Com'è? Anche diciamo volendo dimenticare il fatto che è il remake del Vedovo, anche veramente io che sono una persona esperta, ho fatto questo esercizio critico di dimenticarmi che è il film, è orrendo lo stesso, cioè è orrendo anche in sé, capito? È un film venuto male a prescindere, che poi se lo paragoni è veramente, vabbè, un disastro su tutta la linea. Proprio oggi viene per le cambiali. Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi? Grazie, caro. Ma com'è successo? E com'è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava e oggi si trova bloccata in fondo a un lago. Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini rana per il recupero. Il recupero della salma? La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana! Guardi, al dovere di essere forte! No, non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più! Bianca, commendatore, le fa bene. Ah, non ci riesco. Sì. Con il sciofero è che cucinetti a sfera e per le scadenze cosa devo rispondere? E che deve rispondere? Stucchi. Che deve rispondere? Cavalier in questo Stucchi. Momento mi parlano dei cucinetti a sfera. Ci parlo io. Ecco, passa a lui, Fritz. Passa. È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. La leggo sul giornale. Era nella carrozza a letto. Eh sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni. No, sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più. Marchese, ma non ha altri parenti? Ma che parenti? Passa tutto a me. E la mamma? E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio. Ma non parliamo di denaro, Stucchi! Devo un concetto, commendatore, le fa bene. Cincin. Cincin. Di che vogliamo parlare? Sì, no, infatti. Però, cioè, dire, l'unico vago merito del film è che non riprende le battute di questo film. Cioè, non c'è nessuna delle grandi battute storiche che si ricordano di questo film è ripreso da Aspirante Vedovo. Rimane il fatto, come dicevo all'inizio, che è la dimostrazione del fatto che queste cose in Italia non si possono e non si devono fare. Cioè, noi abbiamo un diverso rapporto con il nostro cinema che ci impedisce di rifare, rimettere in scena. Forse, io credo, perché i grandi attori di una volta italiani non ci sono più, mentre in America continuano a sfornare grandi attori. Cioè, che c'è un'industria cinematografica, cioè, che comunque Widmark, è viva. Un Richard Widmark, un Burt Lancaster sono sostituibili con altri grandissimi attori americani. In Italia, cioè, dopo Alberto Torri dice... Sì, no, è certo, pure questo è vero. Dai, Bombolo, grande attore, Bombolo, per carità, io lo metto ai livelli. Cannavale? Cannavale, grande attore, Cannavale. 500 film in filmografia Cannavale. Cioè, però questi nuovi, questi emergenti, chi ci mette al posto di Sordi? Fabio De Luigi. Vabbè. Insomma, è un'operazione commerciale. Ragione, commendatore, Lambertoni. Lambertoni. Commendator Nardi. Carissimo Lambertoni, questa non me l'aspettavo. Che bella cera che ha. Ma cosa fai che a Milan con sto caldo? Cerco di recuperare quei soldi che le ho prestato. Bene, benissimo. Ecco le cambiali. Ah, cribbio, scadevano oggi? Già, cosa facciamo? E che facciamo? Facciamo un salto in banca, incasso e pago. Ciao zio. Ma cosa fai che a Milan con sto caldo? Quando c'è da incassare io non sento né caldo né freddo. Dimmi. Lui c'è lo zio che gli fa da autista. Sì, straordinario. Insomma, sono molto curioso di vedere come va al box office questo film. Nel senso che, partendo dal presupposto che è un film che non fa ridere, che non è un buon film, insomma, è una cosa che di regola di suo andrebbe male. Però, con due nomi di richiamo, voglio vedere che succede, perché poi comunque calcola che questi due nomi di richiamo sono di richiamo anche per un tipo di pubblico che probabilmente non conosce il Vedovo, per il pubblico molto giovane. Capito? Non lo so, sono molto molto curioso di vedere come va. Anche perché, te lo dico, preparati, se va bene... arrivano tutti, cioè si comincia con i remake dei film storici italiani, perché se va bene viene chiaramente, verrà replicata, lo sfascio cosa. Proprio ovviamente li riprendiamo tutti, li rimettiamo tutti in tutti scena, tutti in scena, via, come fanno gli americani sicuramente, ma speriamo di no. Finora dicevo gli esperimenti che avevano fatto Ivanzina con la mandracata, con hai dei sentori, cioè qualcuno ti ha detto una cosa del genere? No, beh, conosco i miei polli, conosco i miei polli, sicuramente, cioè, perché se c'è del denaro, cioè lo si prende, se c'è da prendere denaro lo si prende, si chiappa. Anche lo chiamavano Trinità, potrebbero fare remake di chiamavano Trinità. Guarda, tu non darlo per escluso, anzi, poi secondo me il... Vabbè che lì ti butti sul western che comincia a diventare difficile, cioè comunque devi rifarlo in un certo... Noi non facciamo più western, mentre commedie continuiamo a farle, western non li facciamo più, per cui... Da 30 anni. Sì, sì, per cui... Anzi, poi la morte di Gemma ha messo la definitiva fine, anzi, quando morirà Terence Hill, la definitiva fine. No, quando Fabio Testi. Fabio Testi, giusto. Franco Nero. Franco vabbè, Nero. No, troppi ancora ne devono morire. Speriamo di no. No, poracci, però comunque. Insomma, questa settimana, nonostante al momento al cinema usciti le settimane scorse ci siano un sacco di bei film, ve lo dico, ce ne sono tanti di belli, c'è Gravity, c'è Rush, c'è Gloria, insomma ce ne sono veramente un sacco. Questa settimana appunto esce Aspirante Vedo, esce un altro film, per esempio Cattivissimo Me 2, con un film... che a me proprio non piace. Allora, è un cartone dedicato proprio ai bambini, è un cartone per bambini che ha un finto vago livello di lettura per adulti, che in realtà è poco e niente, insomma non vale nulla. Io so, perché mi informo, faccio indagini, so che ai bambini piace, quindi questa cosa... Detto questo, secondo me è veramente trascurabile, ma anche una punta fastidioso e ingannatorio, insomma non lo so, è un... Non mi piace proprio, sia questo sia l'altro Cattivissimo Me, il primo non mi erano piaciuti per nulla. Fermo restando che piace ai bambini, a me non piace. Emperor, giustamente. Allora, Emperor... Tommy Lee Jones, grande attore. Per carità, faccia da militare, qui fa un militare, faccia da militare proprio, grandissimo militare. Allora, Emperor è il classico film americano che rilegge la storia. Cioè, gli americani fanno spesso queste cose, mettono in scena degli episodi storici per dare... una lettura della storia, cioè come sono andate le cose secondo noi. Questo qui è una produzione nippo-americana e parla di un momento in cui, finita la Seconda Guerra Mondiale, gli americani sono andati in Giappone per ricostruire il Giappone. Quindi proprio è un film di alleanze. Come fanno sempre. Esatto. È un film... Rompono e poi... Vanno a aggiustare, sì. Ce ne siamo noi. È un film di alleanza in cui si dimostra, cioè la tesi finale del film è... Americani e giapponesi lavorano proprio bene insieme. Uno meglio dell'altro. Esatto, è la storia di questo. Poi, come spesso fanno loro, gli americani prendono una piccola storia nella grande storia. È la storia di questo colonnello a cui il generale, che è Tommy Lee Jones, dà un incarico. Gli dà l'incarico di capire in 7 giorni di tempo. Lui deve capire se l'imperatore Hirohito, l'imperatore del Giappone, sia processabile o meno, cioè se devono processarlo come criminale di guerra per l'attacco a Pearl Harbor oppure no. È una storia vera, ci sono i veri nomi, poi fanno gli americani che alla fine ti fanno vedere tutte le foto vere, no? Però chiaramente poi dialoghi e svolgimento è tutto finto, è tutto romanzato ovviamente. La storia vera appunto di quest'uomo che era fu scelto perché era molto esperto di Giappone, aveva avuto una donna giapponese e quindi infatti anche si vede questa donna giapponese nel film e deve districarsi tra modo di fare americano e morale giapponese, usi, costumi giapponesi. Chiaramente, come potete immaginare, come capita sempre in questi film in cui gli americani si incontrano con un'altra cultura, alla fine il succo del discorso è uguale sempre, qualunque sia la cultura. La vostra è bellissima, è una cultura stupenda, la nostra. Ma quando c'è da fare le cose seriamente, si fa l'americana, basta perdere tempo. Qui tutti bisogna... i torti non ce li hanno. Per carità, da questo punto di vista delle cose, facciamo le cose... Questo film è tutto un film di questo non si può fare, questo non si può dire e no per noi questo non si può fare, ma che giusto, avete fatto bene voi gli ultimi 5 minuti, va bene adesso basta, tira fuori sti imperatore, fammelo vedere e non mi rompere. Così si risolve e così fu risolta la pace in Giappone, no? E così insomma, è un film da generale in pensione questo, Ragioniere della mafia non l'ho visto. Rosalinda, forse quello. Rosalinda, grandissima attrice, boh. Amica tua. Ma dimmi, c'è un altro lì, non lo vuoi dire? In valigia. No, l'avevo detto, no, c'è un altro, stai lì, ci giri intorno. Gloria. Gloria. Sono quelli che non ho visto. L'amore in valigia non l'hai visto? No, l'amore in valigia non l'ho visto, con questo bel titolo. Ma non li fanno vedere alla stampa, non è che sono io che non li vedo. C'è un nuovo critico rampante che li vede tutti. Vaga, boh. No, critico rampante che li vede tutti. Sono questi che... Giovanni si chiama. Sono questi Giovanni. Che scaricano. Sono cose che... Ma non si fa. La vera critica non scarica. Adesso gli metto un adesivo dietro la macchina. La vera critica non scarica. Allora, Gloria invece è il vero film. È il vero film che bisogna aver visto. Sì. Gloria è un film che ho visto al Festival di Berlino. Ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Allora, Gloria... è un film che racconta di una donna di 58 anni. E tu dirai, sì, vabbè, ho capito. Ma cosa vuoi che me ne freghi a me? Di una donna di 58 anni, cilena. Ma cosa vuoi che me ne freghi? Ah, la forza del film è che in realtà riesce a colpire qualsiasi tipo di pubblico, nonostante racconti proprio di una donna. È lei che ha l'età che ha, il matrimonio è finito, i figli sono grandi, hanno la loro strada, e cerca comunque ancora di farsi una vita. Gira, esce, frequenta, cerca di vedere gente, e appunto conosce un altro uomo. Insomma, ci sono delle avventure in questo film. E fa, paradossalmente, finisce per fare una vita da adolescente, benché non solo non ne abbia l'età, ma non ne abbia neanche il fisico. Tutto questo è raccontato benissimo con lei, che è un'interprete pazzesca, Paulina Garcia, veramente una grandissima interprete. E c'è questo misto di dramma e di commedia, perché fa anche molto ridere Gloria, e un ritratto del sentimentalismo umano, non delle donne, umano, molto forte, molto bello. Se lo andate a vedere, notate per esempio l'uso che viene fatto della sua miopia. Lei è miope, ha questi occhiali molto grandi che la invecchiano immediatamente, cioè è una cosa che subito la rende vecchia, mentre invece lei vuole fare una vita un pochino più dinamica. Ma vai in discoteca a ballare. Anche. Ti dico, è un film che è talmente, sono serio, dico, sembrerà che scherzo, ma in realtà sono serio, è talmente fatto perfetto, è talmente in un equilibrio straordinario, che anche quando a un certo punto, perché il film si chiama così per questo, arriva Gloria di Umberto Tozzi, non è un momento kitsch, è un momento anzi straordinario. Ma cioè, una punta ti viene da ridere perché non te l'aspetti, dicevano, ma che davvero. Però in realtà è un gran momento. Ah, lei si chiama così per... Lei si chiama Gloria, ma poi a un certo punto sente questa canzone che lo saprà, cioè in Sud America era famosissima. Sì, esatto. Per cui per loro, io poi glielo chiesi anche all'intervista. Lei dice, no, ma per noi è notissimo, cioè una cosa, un pezzone. E nel film simboleggia la canzone della sua giovinezza, perché più o meno degli anni 80, quindi chiaramente... Veramente io ve lo consiglio tantissimo, un gran signor film. Ma guarda, Devo. Oh, abbiamo finito, sono... Ah no, cioè, sì. Oltre i confini del male, che non è il mare, oltre i confini del male... Male, esatto. Insidious 2. Insidious 2, allora, Insidious ha l'uno, ha tutto un suo seguito, dei suoi fans, perché è un signor film. Cioè, Insidious è un film di James Wan, e James Wan è tra i registi emersi adesso, insomma, quelli giovani, quelli che non sono gli storici registi, il più grande regista di paura. In assoluto. Nessuno è capace di creare la paura come James Wan. Poi i suoi film non sempre sono belli, perché alle volte hanno parecchi difetti, insomma, alle volte hanno delle sequenze di dialogo veramente da prenderlo a cazzotti. Detto questo, davvero oggi nessuno è capace, a comando, una bacchetta, di creare paura, ma non la paura quella dei botti, delle cose, l'atmosfera di paura, quella che, oddio, non sta succedendo nulla, già ho paura, ancora. E lo fa, tra l'altro, questo secondo me lo rende grandissimo, con un repertorio d'altri tempi, cioè di lenzuoli, vento, catene, fumo e porte che cigolano. Cioè, veramente con un repertorio d'antan, crea la paura in maniera veramente eccellente. Insidious 2 è un brutto film, cioè è un film non riuscito. Detto questo, segue Insidious 1 proprio esattamente dal suo finale. Se l'avete visto Insidious 1, su 30 secondi dopo quel finale comincia il 2, più o meno sulla stessa linea, sempre sul confine tra al di qua e al di là, tra realtà e il regno dei morti. Però non è a livello del primo, soprattutto se vi ho incuriosito con questa descrizione del cinema di James Wan, non è a livello di quello che al momento è il suo capolavoro, il suo film migliore, che è L'Evocazione. L'Evocazione è un film, insomma, che dal punto di vista della paura è veramente perfetto, molto, molto serio, molto ben fatto, con degli spunti straordinari. Ho visto che hai visto un trailer. Sto preparando una cosa. Di un film che ho visto, te lo dico. Un uomo rinchiuso in una cella ragiona in modo diverso da chi sta fuori. Vede le cose in un altro modo. Per evadere da un penitenziario servono tre cose: conoscere la struttura, capire le abitudini e avere un aiuto all'interno e all'esterno. È un fuggitivo! Tieni le mani in alto! Inizia lo spettacolo. Ray Breslin è capace di evadere da qualsiasi prigione progettata da lui. È un modello di penitenziario in cui rinchiudere quei detenuti di cui nessun governo vuole occuparsi. Ma chi finanzia il progetto vuole la certezza che le strutture siano prova di fuga. Il contatto all'interno? Il direttore, Roger Marsh. Quando cominciamo? Subito. Benvenuto nella tua nuova casa. Sono il direttore Hobbs. Hobbs, dov'è Roger Marsh? Qui non c'è nessun Roger Marsh. Questa è la realtà, è impossibile fuggire. Fatti qualche altro, ne avrai bisogno. State indietro. Cosa facevi prima di arrivare qui? Mi pagano per evadere. Non sembravi così sveglio. Nemmeno tu. Ti ha pagato per farti finire qui. Vuole che ci resti per sempre. Ray è introvabile. Dov'è finito? Forse è finito in un buco nero. Nome in codice la tomba. Se è vivo è là dentro. Là dentro dove? Non lo so. Era una trappola. Qualcuno voleva seppellirmi qui. Devi scegliere. Puoi morire qui o puoi fuggire e vendicarti. Voglio scoprire chi è stato e voglio sapere perché. Facciamolo. Devi creare un diversivo. Ok. Chissà cosa ha scelto, tra morire lì e uscire sì. a vendicarsi. I nonnetti, già il secondo che fanno insieme. Allora, questo qua io l'ho visto l'altro ieri sera, che ma questo per chi non lo sapesse si chiama... No, l'ho visto in anteprima, mica... Ah, perché non mi ha invitato? Non avrò visto L'amore in valigia, però ho visto... Questo perché si chiama Escape Plan... Scusa, lo dico davanti a te, ma perché non mi ha invitato? Perché ogni volta che ti invito tu mi fai, ma non posso. Mi chiami alle 6, io sto in diretta. Vabbè. Lo fai apposta, secondo me perché ti vergogni di me. Cioè sì, vieni prova a entrare da dietro. Allora, si chiama Escape Plan ed è un film in cui Sylvester Stallone, come avete sentito, è l'esperto di fughe dai carceri. Solamente che lo ingaggiano per questo, per testare questo carcere pazzesco, incredibile. Ed è un inganno, in realtà non è un test, veramente lo vogliono chiudere là dentro perché tutti i proprietari degli altri carceri e le varie nazioni non vogliono che lui continui a fare queste operazioni che gli svergogna. E dentro chi ci trova Schwarzenegger. Esatto. Questo carcere è un carcere incredibile, cioè, non vi voglio anticipare come si trova, dove si trova, cos'è, ma è un carcere assurdo. Il film, a totalissima sorpresa, è molto buono, molto buono. È sembra un film anzitutto scritto nel 1987, cioè, veramente, la scrittura sembra quella lì, no? È vero, passato un giorno, è vero. È sufficientemente realizzato con i piedi per essere un B-movie, ci sono delle scene negli uffici che veramente sono a metà tra il film porno e la produzione di serie Z, però ha il grandissimo merito di non perdersi mai in ciance, cioè non ha quelle sottotrame stupide, non ha quelle parti che potrebbero anche non esserci, doppi significati, metaforoni. È un film che va dritto al punto. Azione. Ma guarda, ma neanche troppo, perché tu, dal trailer, da quello che è, sembra, e anche dai protagonisti, che sia un film di botte sostanzialmente. In realtà no, cioè un po' se le danno, per carità, se no però poi piangono. Ma in realtà è un film di testa, come tutti i B-movie. È un film di evasione dal carcere. Aspetta. Va via sulla musica, verso l'orizzonte. Verso l'orizzonte con il suo cavallo. Certo, che gli vuoi dire? Alla John Wayne proprio. E insomma è un film di evasione, nel senso di piani per evadere, grandi piani per evadere, bello, molto ben fatti, bello. Molto tutto di intreccio, come sono i veri B-movie, che sono tutto azione, nel senso non di action, ma di intreccio, del fare cose. E veramente è estremamente riuscito, mi ha stupito. Condividila con noi. Che scrivi? Le mie memorie. Lo sapevo. La sola domanda che dovremmo farci durante la nostra esistenza è: quanto vale la vita di un uomo? Io valgo 20 milioni di dollari e darei fino all'ultimo mio dollaro per riavere la mia vecchia vita. Qualcuno sa come si chiama questo posto? Chalon-sur-Avre, Normandia. Abbiamo ancora lo stesso cognome? No, siamo la famiglia Blake. Benvenuti! Lei sa dove posso trovarlo. Sai che capita ai tuoi quando vi trovano. E tu sei qui per non farlo capitare, giusto? Cerca di non rendermelo impossibile. Se c'è una cosa che non mi piace, è venire interrotto. Il bastardo si nasconde in Normandia. Trovale. Che cosa è stato? Al Capone diceva sempre: chiedere educatamente con una pistola in mano è meglio che chiedere solo educatamente. Allora, queste Cose Nostre, Cose Nostre, film con Robert De Niro, è molto meno d'azione di così. L'azione è tutta concentrata alla fine, però è molto carino e molto divertente. La storia di lui, che è un grande boss mafioso, tradisce tutti, lo inseriscono assieme alla famiglia nel programma Protezione Testimoni e lo mandano in Normandia. Là loro cominciano ad adattarsi, solo chiaramente non si adattano benissimo, specie lui, che quando non so, quando viene l'idraulico a riparare una cosa, lo frega, lui capisce che l'ha fregato ma non può fare nulla, non è che cioè lui non era abituato ad essere fregato. Questo è un po' quello che succede alla fine di Quei Bravi Ragazzi, quando lui capisce che non può più avere tutto come aveva una volta, deve vivere come un comune mortale. Tra l'altro c'è un momento che a me mi ha fatto morire di questo film, in cui a un certo punto lui si spaccia per scrittore, perché non un'entità fittizia la deve avere, scrittore di cose storie di crimine di New York. Siccome hanno un cineforum, lo chiamano a parlare al cineforum, e il film che proiettano è Quei Bravi Ragazzi. Qui c'è un momento di totale a suo agio proprio. Sì, sì, infatti è una scena molto molto carina, molto divertente. Oh, so che esce anche un altro, poi di Luc Besson, quindi bel film, bel regista. Sì, a me non è che mi faccia impazzire, però questo è fatto bene, questo perché dietro, ancora più dietro di Luc Besson, a manovrare come dei burattini, c'è Scorsese che fa il produttore esecutivo. So che esce un altro film di Robert De Niro con Stallone. Ma tra un bel po' quello, quello dei Pugili. Non ho ancora capito se è una commedia o nero o se si prendono sul serio. No, penso che sia una comic movie. Ah, una comedy. Comic movie. Abbiamo finito, perché qui dietro c'è l'alito di Damagnini che incombe. Non lo so, abbiamo altro da dire? Devo fare una domanda. Prego, accomodi. No, prima di tutto che De Niro probabilmente è un colpo di coda dopo tanti film scialbi, 2000 ruoli, ha ritrovato ultimamente. Questo non è malaccio, sì. E poi volevo dire, ma di Nymphomaniac di Von Trier, che adesso sono uscite le locandine con l'orgasmo di ogni attore. Esatto, grande mossa di marketing è stata quella. Però stanno facendo marketing per questo film, già col nome Nymphomaniac, da un sacco di tempo e esce tra un bel po', voglio vedere. Ma di che parla, cos'è? Ma ancora non si sa nulla, fanno solamente marketing con immagini. È la storia di questa donna che è Charlotte Gainsbourg, che viene trovata in un vicolo da un tizio, la porta a casa, lei racconta tutta la sua storia da ninfomane. Così ho letto adesso sul Corriere. Sì, c'è una sinossi generale, non si sa bene la trama nel dettaglio. Comunque, la locandina più bella, l'orgasmo più bello è suo, di Charlotte Gainsbourg. Quello di Udo Kier che è straordinario. E vabbè, cioè, io non lo so, però c'ho un po' di dubbi. Siete su questo dei film. Siete dei maiali. Ma che fine ha fatto il buon cinema? Ma santo cielo, eh. Ah, tra l'altro voglio il piccolo Lord. Il più grande spettacolo del mondo. Questi film qui. Invece voglio dire, a proposito di questo, a proposito di film tosti, duri, voglio dire che tra due settimane, voglio darvi la notizia giusta, esce La Vida d'Elle, che è uno dei più bei film dell'anno. È appunto quello che dicevamo prima, il candidato francese ha vinto Cannes, sarà il candidato francese agli Oscar. È un film veramente bello, moltissimo, e la storia racconta, semplicissimo, come sono i grandi film, semplicissimo. Una ragazza di, se non sbaglio, tra i 16 e i 17 anni, la seguiamo per 3 anni, più o meno 3 o 4 anni, in cui ha una storia con un'altra ragazza, che è la sua prima storia lesbica. Per cui a questa storia inizia che non si conoscono, quindi partiamo e finirà col finire della storia proprio totale. Ed è veramente incredibile, perché è molto vicino alle persone. Cioè, io raramente ho visto una storia così ben ricostruita nei suoi passaggi, molto classica, poi le classiche cose che capitano a una storia d'amore, i finali, proprio tipico. E ve lo dico, veramente non perdetelo, ma attenzione, benché non sia un film fondato sul sesso, però ci sono, visto che lui la segue tutta la storia, ci sono anche scene di sesso lesbico lunghe e dettagliate. Quindi c'è chi può dar fastidio. L'età di 18 anni. Ma probabilmente sì, adesso non lo so, ma probabilmente sì, nel senso che più di così non potete farmi vedere. Non c'è altro che possiamo vedere più di così. C'è proprio tutto. Per cui, appunto, c'è chi può dar fastidio, ma fermo restando che il film non è su quello, il film è su molto altro. Quello veramente è una cosa che completa il quadro, cioè non ti nasconderò niente dall'inizio dai progetti alle cose ai messaggini, tutto. Grazie Vasquez, noi ci vediamo venerdì prossimo ai festival, venerdì prossimo. Ancora no. Sanremo? Vai a Sanremo? Ancora no, Sanremo no. Ah, beh. Sono al momento, sto lavorando per andare a quello di Roma, però comunque anche lì ci devi andare, benché sia qui. Che è il primo anno in cui non ci lavoro. Ti hanno finalmente cacciato via. No, ho detto basta. Ho detto va, per un anno almeno sto fermo. Poi ti hanno scacciato. e quello di Torino. Guarda come fa il vago, visto? Sì, comunque parliamo d'altro. Ma chi vuoi darla bene? Ma te li danno gli accrediti almeno? Ma comunque io ci vado, poi se entro nelle sale non lo so, però io comunque ci vado, sto lì. Capito? No, quando mi incontri io dico, ma sto andando a un film, adesso non so se che tutto il giorno che li vedo, non so se... Ti chiudi a casa? Forse torno a casa. Faccio vedere. Hai visto il film di stamattina senza dire quale? Va bene, grazie Sara, noi ci vediamo venerdì prossimo. No, martedì. Se non c'è il consiglio comunale. Non lo sappiamo. Non si sa ancora. Vabbè. Arriva Tamagnini con la sua musica, yeah yeah, yeah yeah. E noi vi salutiamo con questo capolavoro qui. Grazie da Prince Faster, è tutto, a martedì.